Letture di Radio 24. Esiste il falso perfetto? Oppure, come sostengono gli esperti, in un'opera d'arte ci sono degli elementi inimitabili? Il nuovo libro di Thierry Lenain, commentato da Donald Sassoon, dell'inserto culturale del Sole 24 Ore in edicola oggi, ripercorre le varie tappe dell'eterna lotta tra falsari ed esperti d'arte. Ci sono colpi leggendari. Cinema e letteratura celebrano doti e talenti della banda di ladri che ruba un pezzo prezioso in un museo, o ancora meglio, un'ingente somma di denaro a una banca che tutti credono inespugnabile. Il pubblico prende le parti dei malfattori purché la violenza sia minima o nulla e la vittima sia un'istituzione, una banca di preferenza, o un essere molto malvagio. Naturalmente dietro a tale indulgenza non c'è razionalità. Alla fin fine, con un furto del genere ci perdiamo tutti. Fa aumentare costi e premi di assicurazioni o ci priva della possibilità di contemplare un capolavoro in uno spazio pubblico. In cima al novero dei colpi più leggendari spiccano i falsi d'arte, tema di un nuovo e brillante libro scritto da Thierry Lenain dell'Università Libre di Bruxelles, intitolato Art Forgery, The History of a Modern Obsession. Difficile non ammirare l'abile falsario che riproduce lo stile di un Vermeer o di un Tintoretto, e così facendo perpetua la favola accattivante dell'uomo che da solo riesce a farsi gioco dell'establishment dell'arte e di quegli esperti che, a differenza di noi comuni mortali, si vantano di saper distinguere anche l'imitazione eccellente dal suo originale. Le considerevoli qualità indispensabili a un falsario si concentrano esclusivamente su un obiettivo: conferire all'opera d'arte tutte le proprietà che indurrebbero gli esperti ad attribuirla a un vero artista. Il falsario deve possedere parte dell'erudizione del suo nemico, l'esperto d'arte, deve contraffare l'apparenza dell'opera, la patina del tempo e i segni dell'invecchiamento e sapere ciò che l'establishment dell'arte si aspetta. Così, nel 1937, Han van Meegeren realizzò un Vermeer giovanile, Cena in Emmaus, sapendo che nel 1901 il celebre esperto Abraham Bredius aveva attribuito un Vermeer autentico al periodo caravaggesco, all'epoca ancora ignorato, del grande maestro olandese. Van Meegeren intravide quella che le scuole di business chiamerebbero un'opportunità di marketing e decise di coglierla. Non fu facile. Dovette usare gli stessi pigmenti utilizzati dai pittori olandesi del 600 e riprodurre la stessa superficie lucida e craquelée di un dipinto vecchio di 400 anni. Bredius fu consultato ed entusiasta ne attestò l'autenticità, come riportò sul Burlington Magazine del novembre 1937. Quale meraviglioso momento nella vita di un amante dell'arte trovarsi all'improvviso davanti a un dipinto di un grande maestro, di cui finora si ignorava l'esistenza, intatto, ancora sulla sua tela originale e senza segni di restauro, proprio come se fosse appena uscito dallo studio del pittore. E che dipinto! Ci troviamo davanti a, oserei dire, al capolavoro di Johannes Vermeer, di Delft. Il falso capolavoro fu acquistato da Hermann Göring. Dopo la guerra, Van Meegeren venne arrestato e accusato di collaborazionismo per aver venduto ai nazisti un tesoro nazionale olandese. Rischiò la pena capitale. La difesa di Van Meegeren passò agli annali. «Non ero un collaborazionista. Io raggirai Göring e i nazisti, vendendo loro un falso. Sono io, l'autore del Vermeer». Van Meegeren aveva prodotto il falso perfetto, e nel farlo aveva dimostrato di poter realizzare quello che gli esperti d'arte non ritengono sia possibile. Sostenere il contrario farebbe crollare la loro raison d'être, proprio come per un assaggiatore di vini è d'obbligo dire che è impossibile riprodurre in laboratorio o altrove il gusto unico di un Brunello Biondisanti o di un Chateau Latour. In un'opera d'arte ci sono elementi inimitabili, dicono gli esperti. Un falso Rembrandt non può essere esattamente come un dipinto del maestro. Sostenere il contrario sarebbe come negare la natura unica dell'opera d'arte, argomento principale dell'esperto. Naturalmente ci sono strumenti come la tecnologia e la storia dell'arte che vengono a suffragare la sua tesi, ma l'opera avrebbe potuto essere stata dipinta al tempo di Rembrandt da uno dei suoi allievi nel suo studio, utilizzando lo stesso colore, gli stessi pennelli, una tela simile. Come diceva Max Friedlander, il falso perfetto è impossibile, poiché ogni opera d'arte reca i segni dei suoi artefici e del tempo. I falsi sono intrinsecamente riconoscibili e il loro riconoscimento va di pari passo con la valutazione artistica dell'opera. I falsi possono riuscire solo per un breve periodo di tempo. Così, falsario ed esperto d'arte sono implicati in una lotta epica ed è proprio questa lotta che Lenin analizza nel suo splendido libro. La tesi dell'autore è che questa guerra sia un fenomeno moderno. Nell'antichità e persino nel Rinascimento, i falsi erano considerati abili frodi, dove il falsario dimostrava la propria intelligenza e le proprie doti. La preoccupazione dell'autenticità nasce nel Medioevo, con il culto delle reliquie. L'importante è se il chiodo è veramente il chiodo originale della croce di Gesù Cristo, se l'osso del dito appartiene davvero alla mano di Sant'Agostino. Il culto delle reliquie preparò il terreno al mercato dell'arte nella sua forma moderna. E proprio come Calvino inveiva con pesante ironia sul gran numero di chiodi attribuiti alla crocifissione, più di 30, gli esperti d'arte consideravano i falsari peggio dei saprofagi. I falsari andavano fermati e denunciati non solo perché criminali, come di fatto erano, ma perché avrebbero distrutto l'apprezzamento dell'arte. Ovviamente è probabile che esistano falsari di successo. Il loro successo dipende dal fatto che ne ignoriamo l'esistenza. Il rovescio della medaglia è la particolare punizione che devono sopportare. A differenza degli artisti più capaci, che possono sbandierare ai quattro venti i loro successi, i falsari sono costretti a tenere la bocca chiusa. Dopo aver realizzato un Rembrandt che è stato autenticato dall'establishment dell'arte e magari esserselo visto esposto in un grande museo, deve essere dura non poter dire «l'ho dipinto io». Van Meegeren si sarà pure goduto il suo momento di gloria, come forse Thomas Keating, il più grande falsario del Novecento, che concepiva i suoi falsi come protesta contro la degenerazione del mercato dell'arte. Nella sua vita, Keating realizzò qualcosa come 2000 capolavori, fra i quali opere di Rembrandt, Fragonard, Gainsbourg, Renoir, Degas e Modigliani. Alla fine si era convinto che i grandi pittori del passato dipingessero tramite lui, guidando il suo pennello. Nell'abbindolare l'establishment, Keating finì per abbindolare se stesso. Avete ascoltato la lettura del commento di Donald Sassoon al libro di Thierry Lenin, Art Forgery, The History of a Modern Obsession, dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi. Gabbie più grandi e dotate di lettiera. L'Unione Europea impone agli allevatori di galline il rispetto di misure rigorose. In caso contrario, le uova prodotte verranno considerate fuori legge. Reclusione in spazi più piccoli di un foglio A4. Gabbie impilate fino a 6 piani con ventilazione e luce forzata per aumentare la produzione stile Pol Pot. Eppure è arrivato il momento Piazza Tahrir anche per le pollastre, la loro primavera araba. L'Europa ha infatti dichiarato guerra ai carcerieri delle galline ovaiole. A partire dal 1 gennaio le gabbie di batteria sono state mandate in pensione. È quanto previsto dalla direttiva europea 7499 del Consiglio europeo, che impone l'allevamento a terra oppure l'impiego di gabbie rispettose del benessere animale. La questione è delicata e parte da una norma datata 1999 che metteva al bando a partire da quest'anno le vecchie gabbie. Liberi tutti, dunque? Le stie non scompariranno, ma dovranno misurare 750 centimetri quadrati al posto degli attuali 550 ed essere dotate di comfort quali nido, lettiera, posatoio per deporre le uova e zona graffi per le unghie. Solo rispettando queste misure gli allevatori europei potranno continuare il loro lavoro. In caso contrario, le uova non prodotte nelle gabbie ammodernate verranno considerate a tutti gli effetti fuori legge e quindi non commerciabili. Eppure l'Italia, insieme ad altri paesi come Francia e Spagna, ha represso questa rivoluzione. Per questo il bel paese rischia ora una maxi multa. Dei circa 47 milioni di galline ancora detenute nelle gabbie convenzionali e quindi irregolari, poco meno della metà, circa 18 milioni, si trova in Italia. In totale, secondo i dati in possesso della Commissione, le galline allevate in sistemi non conformi alla direttiva sul benessere ammontano al 14%. Gli ispettori del Food and Veterinary Office, sguinzagliati dall'Unione Europea, hanno velocemente individuato i cattivi. Così la Commissione ha potuto avviare il procedimento di infrazione con l'invio della notifica formale della mancata applicazione della direttiva. Per fermare la procedura dell'Unione Europea, gli allevatori potrebbero opporre ragionevoli motivazioni sulle cause che hanno impedito di ottemperare agli obblighi comunitari, anche se non sarà semplice, considerati i 12 anni di tempo per mettersi in regola. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà inviare il secondo avvertimento ufficiale, con cui chiederà agli Stati membri di adottare le misure necessarie entro 2 mesi. Una scadenza non facile, richiede tempo e denaro, con la possibilità dunque di portare l'Italia di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Certo non sarà al Tribunale dell'Aia, ma si rischiano multe salate. L'applicazione insufficiente dagli Stati membri rimane un serio problema, in quanto falsa la concorrenza tra i produttori europei e mina la nostra credibilità nei negoziati internazionali in materia di benessere animale, ha dichiarato il commissario europeo per la salute, John Dalli. E non è tutto. Dal 1 gennaio 2013 diventeranno fuori legge anche i box individuali per le scrofe. I suini si preparano alla rivolta. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Camilla Minarelli, Galline in fuga, dal numero 39, marzo 2012, del magazine Il.